della terra, ove rifulge cocentemente il sol, ove distende bianco manto la neve, una migrante schiera di navi remigar per l'acque degli ampi oceani, ed affollarsi tutte verso un magico tempio, ed in quel tempio sparger mille a mille i portentosi miracoli del genio. Allora udissi un cozzar d'armi, un saettar di spade, un tempestar di carri e di corsieri, un grido di trionfo e un ululante urlo. Eccola, ove fumò di sangue il campo di battaglia, un luttuoso campo santo levarsi, e un'elegia di preghiere, di pianti e di lamenti. vessillo antico di libertà. Salve Inghilterra, salve, salve! Oh Francia, tu che spargesti il generoso sangue per una terra incatenata. Salve, oh Francia, salve, oh Italia, oh patria mia. Sei nel cielo, vegli su te, fino a quel dì che grande libere luna tu risorga il sole. Francia, oh Gia.